Serata e appuntamento del venerdì con Arden Devi, la voce di Marco Gravelli. Il saluto va a voi che siete all'ascolto di Rock FM, al nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché all'autore Simone che ha preparato le due band per questa sera con tutte le note biografiche, le scalette. TNT nella prima parte, dedicata quindi al mondo più hard rock, e poi gli Ed Guy nella seconda parte. Parliamo allora dei TNT, di questa band che proviene dalla Norvegia. L'album che prendiamo in considerazione è uscito alla fine del 92, io ce l'ho su CD giapponese, non so se è uscito anche per il resto del mondo, penso e spero di sì. È il loro primo album dal vivo dopo 5 album in studio. Il secondo album dal vivo invece è Live in Madrid, uscito poco tempo fa, nel 2006. Come suggerisce il titolo, cioè Three Nights in Tokyo, è stato registrato in quel di Tokyo in 3 serate, 22, 24, 25 agosto del 1992. Poi alla fine di agosto viene pubblicato. Ci sono 11 tracce in totale, una delle quali è strumentale. La formazione composta da Tony Arnella alla voce, Robby Letecro alla chitarra, Morty Black al basso e John Macaluso alla batteria. Il primo contatto che abbiamo con loro è con il pezzo che andiamo a proporvi, si intitola As Far As The Eye Can See, la cui versione in studio si trova nell'album Tell No Tales TNT. Oh, As Far As The Eye Can See. Questo è il titolo del primo pezzo che vi sto proponendo. La versione in studio, lo ripeto, si trova su Tell No Tales, famoso album della band TNT, band che arriva dalla Norvegia, celebre proprio nel mondo, nel campo dell'hard rock. Nella loro carriera hanno ottenuto 3 dischi di platino, quindi 1 milione di copie superate, 5 dischi d'oro, oltre 500.000 copie, 3 dischi d'argento, 250.000 copie. Naturalmente band molto nota in patria. Il gruppo nasce nel lontano 1982, dopo aver ottenuto un contratto prestigioso con la Polygram. Arrivano nello stesso anno 1982 all'esordio discografico, che era cantato in norvegese. Non c'era Tony Arnella, c'era un altro cantante. Sin dall'esordio hanno avuto anche subito un buon successo in patria, arrivando al numero 16 nelle posizioni delle charts norvegesi con l'album d'esordio. Segue poi un doppio cambio di lineup: ingresso del bassista Morty Black, che resterà sino alla fine del 2004, e soprattutto l'ingresso del bravo cantante americano Tony Arnell, che cambia la lingua. Quindi non c'è più il precedente cantante che interpretava le canzoni in lingua norvegese, ma Tony Arnell canta in inglese, come state ascoltando. Ricordo che l'album in questione è il primo lavoro dal vivo, uscito alla fine del 92, si intitola Three Nights in Tokyo. Dopo As Far As The Eye Can See andiamo ad un altro brano dal titolo Hard To Say Goodbye, versione in studio sull'album Realize Fantasy. La formazione è quella dei TNT. Oh, Heart Say Goodbye da Three Nights in Tokyo Live TNT, protagonisti questa sera in apertura del nostro spazio di Arden Devi. Continuiamo a parlare della storia di questa band. Abbiamo detto che tra il primo e il secondo album avviene il cambio di cantante, e in origine i testi del secondo album erano stati scritti anch'essi in norvegese dal precedente cantante Dag, ma Tony Harnell, una volta entrato giustamente in lineup, li ha completamente riscritti in lingua inglese. Esce così nel 1984 il loro secondo album, Knights of the New Thunder, il primo proposto in lingua inglese, che riscuote un successo ancora maggiore, portandoli al numero 9 delle classifiche di vendita nazionali, quindi stiamo parlando, lo ripeto, lo sottolineo, della Norvegia, oltre ad una successiva pubblicazione in tutto il mondo, tanto che il singolo Seven Seas, che tra parentesi è presente anche su quest'album in versione live, entra nelle classifiche americane ed entra in rotazione sul veicolo importante all'epoca televisivo, quale MTV. Nel 1987 esce il terzo lavoro, Tell No Tales, che si rivela il loro primo grande successo, tanto da raggiungere il primo posto in Norvegia, entra in Svezia e vincono anche un Grammy Award norvegese come album rock dell'anno. Altro brano che andiamo a proporre, forse il brano che io conosco maggiormente della band, proprio dall'album che ho citato, Tell No Tales, un grandissimo singolo di successo anche in America. 10,000 Lovers in Love TNT. Famoso singolo, questa 10,000 Lovers in One, dall'album Tell No Tales, i TNT. Continuiamo con la loro storia. Abbiamo detto che con questo terzo album ottengono un buon successo anche in America. In effetti andarono di spalla ai Great White e ai Twisted Sister. Segue però poi la sostituzione del batterista e nel 1989 arriva l'album Intuition, che prosegue il successo tanto che si riconferma ai primi posti di nuovo in Norvegia. Questi ottimi risultati gli valsero un nuovo contratto con l'Atlantic Records, che ne pubblica nel 1992 l'album Realize Fantasy, ancora una volta con un nuovo batterista. questa volta con il bravo John Macaluso. Nel 92 viene pubblicato questo live che stiamo presentando, dove in formazione vi è comunque il precedente batterista che si chiama Johnny Mac, poi appunto Morty Black al basso, Ronnie Letecro alla chitarra e Tony Arnell alle voci. Andiamo a proporre un altro estratto. La canzone che andiamo a proporre ora trova spazio nella versione in studio dall'album che vi ho appena citato, cioè Realize Fantasy. Si intitola Downhill Racer. Questa è la formazione dei TNT. We're gonna play the first single for you right now that you guys voted for in Japan. This one, Downhill Racer. Hey! grande ugola di Tony Harnell, ma anche Ronnie alla chitarra, niente male questa band TNT. Se non la conoscete, c'è lo spazio di Arden Davy questa sera, quello live che li presenta in questa veste. Andiamo praticamente quasi in dirittura d'arrivo con l'ultima fase della loro storia e anche la presentazione dell'ultimo brano. Ci siamo fermati al 1992, si ferma anche la band per 4 anni, quando nel 96 si riuniscono e un anno seguente, nel 97, ritornano con un nuovo album, ennesima volta cambio di batteria. In occasione dell'album My Religion, siamo nel 2004, c'è il ritorno nella band di Diesel Dahl, che è stato il loro primissimo batterista. A metà del 2006 arriva l'improvvisa notizia: il cantante Tony Harnell, dopo 22 anni, lascia ufficialmente la band dei TNT per motivi personali. Il suo posto è stato preso da un cantante inglese degli Shy, ottima band di hard rock AOR più che altro, Tony Mills, proveniente proprio dagli Shy. Nel 2006 viene pubblicato Live in Madrid e poi con Tony Mills lo scorso anno esce sul mercato The New Territory, che è anche il loro decimo album in studio per la formazione. E andiamo a concludere l'ascolto delle tracce da quest'album, ripeto, si intitola Three Nights in Tokyo, registrato il 22, 24, 25 agosto del 92 proprio a Tokyo, con il brano che chiude l'album, Everyone's a Star, ed è l'ultima traccia, la traccia numero 11 di questo CD. Poi ci dedicheremo nella seconda parte, come già annunciato, agli Ed Guy. Everyone. Inizia così la seconda parte del nostro consueto spazio di Arden Davis. Siamo nell'appuntamento del venerdì. Terminata la prima con i TNT, entriamo nel settore propriamente più metal, dove il nostro Simone per questa sera ha proposto e ci presenterà, ci parlerà tramite la mia voce degli Ed Guy. L'album dal vivo è un doppio CD, si intitola Burning Down the Opera. È uscito recentemente, siamo a metà del 2003, è il primo anche unico album dal vivo e ha raggiunto la 57esima posizione nelle charts tedesche. È un doppio CD composto da 14 canzoni, un intro, un solo di batteria. Una delle tracce è anche Avantasia, proprio del progetto Avantasia. A tal proposito, ad inizio settimana è stato reso noto che gli Avantasia suoneranno anche in Italia come headliner ad un nuovo festival che si chiama Rockin' Field e si terrà sabato 26 luglio in quel di Adro, provincia di Brescia. La formazione è composta da Tobias Sammet alla voce, Jens Ludwin e Dirk Sauer alle chitarre, Tobias Excel al basso e alla batteria, Felix Bonka. Andiamo a proporre il primo brano da questa tracklist, si intitola Babylon, estratto diciamo nella versione in studio, la trovate dal quarto album Theater of Salvation. La formazione è quella degli Ed Guy. Oh, Babylon, il primo brano che abbiamo proposto da questo Burning Down the Opera, il doppio CD live unico per gli Edguy, che è stato registrato dal vivo durante il tour mondiale del 2001-2002 chiamato The Mandrake World Tour, anche se che li ha portati in tutto il mondo, veramente dall'Europa all'America, Sud America, Australia, Giappone, però le date scelte, almeno le canzoni, sono state scelte dalle date europee. Iniziamo anche a parlare della storia di questa band che arriva dalla Germania, esattamente dalla città di Fulda. Hanno dalla loro parte un'immediatezza e una carica energica dal vivo che li fa apprezzare in tutta Europa, tanto che con gli ultimi tre album sono entrati anche nelle prime posizioni di diverse classifiche internazionali. I membri fondatori sono il carismatico leader trentenne cantante Tobias Sammet, che è anche il compositore della band, e il chitarrista Jens Ludwig, che si conobbero a scuola a 14 anni fondando la band nel 1992. Una curiosità riguarda il moniker, il nome, che è una storpiatura del nome del loro professore di matematica, che si chiamava Edgar, e quindi da Edgar a Edguy, un po' come hanno fatto negli anni 70 Elena Scanab. Cominciano loro a proporre canzoni come cover band, poi registrano due demo che però non gli valgono alcun contratto. Così nel 1995 decidono di autoprodursi il loro primo CD, Savage Poetry, che viene venduto esclusivamente per posta. L'album è molto dilettantistico e dimostra ancora una band molto acerba. Altro brano che andiamo a proporre, estratto nella versione in studio da Vain Glory Opera, si intitola Out of Control. Control, il pezzo che chiude anche questo doppio Burning Down the Opera, estratto dalla la versione in studio, la ricordo, dalla Vain Glory Opera, il loro terzo album. Siamo nel 1996 per quanto concerne naturalmente la storia della band, e grazie ad alcune conoscenze all'interno dell'etichetta AFM Records riescono a ottenere il loro primo contratto e a pubblicare nel 97 il secondo album Kingdom of Madness, che segna decisamente un passo avanti a livello di stesura delle canzoni e della produzione. Segue poi il cambio di batterista, il vero salto di qualità lo si ha nel 1998 con la pubblicazione di Vain Glory Opera, ad oggi considerato il loro capolavoro, che vede come produttore Timo Tolkki degli Stratovarius, oltre alla presenza di special guest di Hans Kursch dei Blind Guardian. Una curiosità: come si è arrivati a Timo Tolkki per la produzione? Beh, Timo era in Germania per promuovere il nuovo album degli Stratovarius, così Tobias si è finto un giornalista e quando è arrivato il suo turno per intervistarlo si è presentato a lui con il demo e gli ha chiesto se voleva produrre l'album. Tolkki da prima è rimasto un po' sconcertato, ma in seguito ha ascoltato le canzoni, gli sono piaciute, li ha contattati e da lì è nata la produzione di quell'album. Oggi un altro pezzo che andiamo a proporre è proprio Vain Glory Opera, ormai un classico naturalmente della band, e estratto proprio dal terzo album, se volete la versione in studio, che si intitola Vain Glory Opera. Ed Guy da Burning Down the Opera live in Arden Davis su Rock FM. pezzo che dava il titolo al loro album, ormai un classico, Vain Glory Opera. E con questo album vi è decisamente un passo in avanti a livello qualitativo delle canzoni, classicamente power metal con molti cori e di facile presa. Questo album gli valse anche la partecipazione ad un mini festival qua a Milano, Psycho Party del 1998. Entra poi in lineup un bassista ed un nuovo batterista, e da allora la formazione è rimasta sempre la stessa. Il successo è alle porte, infatti nel 99 pubblicano Theater of Salvation, che gli valse un tour di supporto ai Gamma Ray e che ne sancirono la notorietà in Europa. Nell'attesa del nuovo album viene risuonato e ristampato il primo, quello che avevano venduto per posta ed era un'autoproduzione, cioè Savage Poetry, completamente risuonato. Nel frattempo l'instancabile Tobias Sammet crea il progetto Avantasia, ormai giunto al terzo episodio, che lui stesso ha presentato qua nei nostri studi poco tempo fa. Nel 2001 esce il quinto album degli Head Guys, intitola Mandrake, che vede modificare le coordinate musicali verso un heavy metal. L'album arriva al numero 19 in Germania, 18 in Svezia. Segue quindi l'atteso album dal vivo, cioè questo Burning Down the Opera che vi stiamo proponendo, è uscito a metà del 2003 con registrazioni che risalgono al 2001-2002. Poi arriva il contratto con una nuova etichetta per loro, cioè la Nuclear Blast, che ne pubblica nel 2004 Hellfire Club, che denota riff molto più pesanti e che si rivela l'album più eterogeneo della loro discografia. Il power degli esordi è ormai lontano, nonostante ciò in Svezia arriva al numero 6, in Germania arriva alla posizione 26esima. E arriviamo così all'ultimo, settimo album, Rocket Ride del 2006, che ha deluso in parte i fan poiché denota un sound più tendente all'hard rock, ma questa scelta gli ha permesso di arrivare all'ottavo posto in Svezia, ottavo in Germania, 25 in Finlandia. La band attualmente sta pensando ad un nuovo album, le cui registrazioni avverranno nel 2009. Ringrazio voi, ringrazio come sempre il nostro autore Simone, lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodio numero 1 qua a Milano, e chiudiamo con un altro estratto da questo Burning Down the Opera doppio CD dal vivo degli Head Guy. Il pezzo si intitola Painted on the Wall. Da Marco Gravelli è tutto, a lunedì prossimo, ciao ciao.